8. Ascolta il testo e completa il modulo di iscrizione. Benvenuti. Mi chiamo Emma. Piacere di conoscervi. Oggi vorrei presentare a tutti i nuovi studenti la nostra scuola, i corsi e la città. Ecco a voi il calendario dei corsi, una mappa della città e un libretto con molte notizie utili. Orari di apertura dei negozi, dei musei, delle banche, indirizzi web. Oggi pomeriggio uno dei nostri professori vi accompagnerà in città per conoscere meglio i luoghi più importanti. Questa mattina, prima di scrivere il test d'ingresso, è necessario compilare queste schede. Ecco a voi. Grazie.